La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'apporto che il Mezzogiorno, e in particolare la città di Napoli, hanno offerto all'unificazione nazionale. Ospite ai nostri microfoni Paolo Macri, docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, autore, tra gli altri, del volume Unità a Mezzogiorno, come l'Italia ha messo assieme i pezzi, pubblicato dal Mulino. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alle terribili profezie sul 2012. La più nota è quella dell'antica civiltà Maya, che sulla base di un calcolo astronomico indicherebbe la data del 21 dicembre prossimo come il giorno della fine del mondo. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Qual è stato l'apporto che il Mezzogiorno e la città di Napoli in particolare hanno offerto all'unificazione nazionale? Aspetto molto rilevante ma poco dibattuto dalla storiografia, attenta piuttosto, come sappiamo, a valorizzare il ruolo svolto dal Piemonte nel percorso che portò alla creazione del Regno d'Italia. L'argomento è oggetto di una delle lezioni di un ciclo di incontri organizzato a Napoli dal CNR e dall'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano, curato da Gemma Colesanti e Gabriella Corona. Ciclo di lezione che è riservato agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dal titolo Napoli oltre lo stereotipo. La lezione su Napoli e l'unificazione nazionale sarà tenuta il 4 dicembre da Paolo Macri, docente di storia contemporanea presso l'Università Federico II di Napoli, autore, tra gli altri, del volume Unità a Mezzogiorno, come l'Italia ha messo assieme i pezzi, pubblicato dal Mulino. Buonasera, professor Macri. Buonasera a lei, buonasera. Ascoltiamo insieme, prima di tutto, questo passaggio dell'introduzione del suo libro. L'Italia è un paese di successo, ma il successo non cade dal cielo. E i fatti dicono che in realtà l'Italia nasce su un letto di spine. Il suo cammino germinale è difficile sul piano internazionale e soprattutto sul piano interno, come mostrano le gravi fratture delle proprie élite nazionali, le lotte all'arma bianca tra liberali e democratici, gli insuperabili contrasti tra Cavour e Garibaldi, il pericoloso scontro fra strategia diplomatica e spinte rivoluzionarie, per non dire dell'ombra di Mazzini. Il Risorgimento è un campo di forti tensioni, un'epopea lacerante. Il che non deve sorprendere, perché malgrado la loro retorica unitaria, spesso i movimenti nazionali europei ed extraeuropei si affermano attraverso lotte intestine che sono aspre se non cruente. All'interno di questo quadro, professor Macri, quali furono le cause profonde che determinarono la cosiddetta questione meridionale? La tesi fondamentale di questo mio libro è che la frattura tra il Mezzogiorno e il resto del paese, diciamo così, non nasce con l'unificazione, ma nasce in qualche modo prima, nel senso che il Mezzogiorno entra nel processo unitario come un territorio fortemente difforme, diverso, con delle forti differenze rispetto al resto della penisola. Questo poi si potrebbe argomentare in tanti modi. Insomma, il Mezzogiorno nel 1861 e nei decenni precedenti si presenta come uno Stato molto debole, con una incapacità dello Stato di controllare il territorio, con una cogestione del potere statale con le élite feudali. È un territorio per l'appunto dove la feudalità dura molto più a lungo che nel centro-nord, sopravvive anche alla sua abolizione, perché in fondo l'abolizione della feudalità nel 1806 abolisce i diritti speciali, giurisdizionali della feudalità, ma mantiene la struttura economico-sociale di questo ceto, che non saranno più i feudatari ma saranno i cosiddetti galantuomini, e insieme con la feudalità c'è nel Mezzogiorno una forte conflittualità tra notabili feudatari, quelli che poi saranno i galantuomini, e le comunità attorno all'ancestrale, diciamo pure, problema della terra, delle terre comuni, dei demani, sì. Che vengono, secondo le comunità locali, usurpati, recintati, esclusi appunto per le comunità dai vecchi feudatari e dai nuovi galantuomini. È un territorio, come dire, dove c'è una forte conflittualità, dove c'è anche una forte violenza. Questo è un territorio dove il brigantaggio non nasce dopo il 1860-61 con la grande stagione del brigantaggio, ma è ben precedente, ed è anche questo il segno di una di uno scarsissimo controllo dello Stato sulle sue periferie. C'è insomma una diversità di origine, la questione meridionale, detta così, sì. Come dire, precedente paradossalmente all'unificazione, è un elemento che determina quella lacerazione del risorgimento che prima veniva citata nel brano. Sì, ad avvalorare questa sua tesi, professore, vorrei che noi leggessimo insieme ai nostri ascoltatori un altro passaggio del suo libro che a me pare molto interessante, esattamente in linea con quello che lei poc'anzi ci diceva. La questione è quale sia il Mezzogiorno che nel 1860 si incontra politicamente e culturalmente con il Risorgimento. La risposta che viene dalla cronaca di quei mesi è assai significativa, ancorché nota. Il teatro di quell'incontro è la vecchia Sicilia occidentale dei baroni e non la Sicilia etnea dell'agricoltura ricca e degli armatori. La Basilicata dei contadini senza terra e non la Puglia delle città e dei commerci. Palermo e non Catania. Potenza e non Bari. E poi naturalmente Napoli, con i suoi lazzari minacciosi, i gruppi violenti della camorra, le fragili classi dirigenti. E allora, da questo passaggio del suo libro, professore, la domanda è effettivamente: quale mezzogiorno nel 1860 si incontra con il Risorgimento? È il mezzogiorno di cui parlavo prima, è il mezzogiorno, sì, di una feudalità ancora forte, di una forte conflittualità locale, di un tasso di violenza molto forte che entrerà nel mezzogiorno. Non bisogna mai dimenticare che l'impresa garibaldina, che ovviamente è dovuta alle qualità del generale con la camicia rossa, è però un'impresa che non si sarebbe mai verificata, che non sarebbe spiegabile, data anche i rapporti di forza, se non ci fosse l'appoggio nella Sicilia, come dire, dove più forti sono gli elementi feudali, quindi nella Sicilia diciamo occidentale, palermitana per così dire, l'appoggio che questi gruppi di vecchia società danno al liberatore, a Garibaldi. È un appoggio però molto controverso, perché questo, ripeto, implica un tasso di violenza, di ingovernabilità. Garibaldi c'ha un grosso problema a, sì, governare, diciamo, i siciliani che lo appoggiano, che lo appoggiano perché in Sicilia c'è una nazione siciliana, diciamo così, anche questo un po' con un paradosso, che detesta il Napoli, il dominio napoletano, che aspira ad un'autonomia se non a un'indipendenza. È insomma, come dire, un mezzogiorno virulento quello che entra come protagonista, che crea problemi, ripeto, allo stesso Garibaldi. Non parliamo a Cavour, insomma, certo, e non parliamo ai successori di Cavour, non ci dimentichiamo che questo mezzogiorno del Risorgimento è quello che poi insomma darà vita dal 61 al 65 ad una sorta di vera e propria ribellione, insomma, del sud al nord, se così possiamo definire il cosiddetto grande brigantaggio. C'è una affermazione del suo libro che ho trovato molto interessante, esattamente in linea con quanto lei ci sta dicendo, che rompe anche una sorta di stereotipo cui siamo stati abituati finora. Tra il nord e il sud, lei scrive nel libro, il problema non è forse di arretratezza, ma di diversità. Infatti lei parla di un deficit di capitale sociale. È una chiave di lettura che ho trovato molto interessante. Ce la vuole spiegare più nel dettaglio? In qualche modo, torniamo sempre a questo discorso di una debolezza dello Stato che dà molto spazio alle località, ai localismi e a quelle élite locali che certo non sono particolarmente commendevoli sul piano del governo dei comuni. comuni, diciamo così, insomma, no? E che sono elite che mantengono il loro potere con tutti i mezzi, che hanno pratiche di, appunto, come dicevo prima, di usurpazione, di imposizione violenta dei propri interessi, di monopolio del potere locale, sono realtà che in qualche modo destrutturano qualunque ipotesi di una crescita, di un capitale sociale, di una prassi di cooperazione, di una coesione, diciamo, della comunità, del municipio. Non voglio adesso idealizzare i municipi padani e settentrionali, ma non c'è dubbio, insomma, no, che sia pure governati anche lì alla metà dell'Ottocento da elite agrarie non particolarmente innovative. Sono comuni che hanno una coesione, che hanno un tasso di una coesione molto maggiore, un tasso di conflittualità enormemente minore. Quindi c'è proprio una differenza, come dire, basica, ripeto, originaria, perché guardi, sostanzialmente poi la polemica o le ideologie che si sono, come dire, stratificate sulla storia del rapporto nord-sud sono quelle di uno sfruttamento settentrionale sulle terre meridionali conquistate, esatto. O sono al contrario quelle, la teoria della palla al piede, cioè di un sud che è comunque un problema per lo Stato italiano. A me sembra che tutte e due queste teorie sono fittizie, sono in parte fittizie, insomma. A me pare appunto che questa teoria, diciamo, dello sfruttamento settentrionale, quindi di un mezzogiorno che arriva nel 1860 con tutte le carte in regola, sia molto discutibile. Appunto, come dicevamo, c'è una forte difformità e diversità, appunto, non la chiamiamo arretratezza, chiamiamola diversità. Grazie. Dall'altra parte, questa teoria della palla al piede, insomma, ignora, e questa è un po' la seconda parte del discorso che cerco di fare, ignora l'importante funzione di stabilizzazione del sistema che svolgerà il mezzogiorno dopo la fase calda 1860 e poi brigantaggio 1865. Grazie professore per essere stato con noi, buona serata. Grazie a lei, arrivederla. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte di La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alle terribili profezie sul 2012. Lo scrittore americano Brad Meltzer conduce un'indagine intorno alle catastrofi naturali che si sono abbattute sul pianeta e che sarebbero un'ulteriore conferma di queste profezie. Una delle previsioni più spaventose è quella dei Maya. Questo popolo, dalle sofisticate conoscenze astronomiche, avrebbe previsto tutto quello che sta accadendo e ha persino indicato una data esatta per la fine del mondo, il 21 dicembre 2012. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 14 novembre alle 17 su History Channel. Gli antichi Maya si sviluppano nell'arco di un migliaio di anni nell'odierno Centro America. Sono una delle civiltà più affascinanti che il mondo abbia mai conosciuto. Costruiscono città enormi e templi imponenti ed eccellono nella matematica, nell'arte e nella scrittura. Ma quello che più ci colpisce sono le loro osservazioni astronomiche e le profezie. Quelle sul 2012 lasciano sconcertati. Non sono terzine criptiche interpretabili a piacimento, sono specifiche persino nella scelta del giorno. Ma i Maya non sono i soli ad aver fatto previsioni sul 2012. In diverse parti del globo, popoli diversi, che non sono mai stati in contatto tra loro, scrivono le stesse cose e arrivano alla stessa conclusione. Il mondo sta per finire. Quello che voglio sapere è perché i Maya hanno scelto proprio quella data. Daniel Pinchbeck, scrittore. Il 21 dicembre 2012 coincide con l'allineamento ottico del Sole col centro del Dark Rift della Via Lattea nel solstizio d'inverno. È plausibile che abbiano impiegato diversi secoli per determinare quale sarebbe stato l'esatto allineamento che avrebbe rappresentato una trasformazione ciclica. Secondo un'interpretazione della profezia, i Maya scelgono il 21 dicembre 2012 perché prevedono che in quella data il Sole sarebbe sorto in perfetto allineamento col centro della nostra galassia. La Via Lattea. Ancora lo scrittore Daniel Pinchbeck. È probabile che una volta scoperto l'allineamento abbiano retrodatato il ciclo. Hanno visto il 2012 come il punto cruciale di una fase di cambiamento nella vita del mondo. E in passato quelle fasi erano state caratterizzate da una serie di terremoti, violenti incendi, un processo di rigenerazione che richiedeva una fase di distruzione. Hanno capito molti secoli fa che quel giorno rappresentava un crocevia e oggi emergono certe tendenze convergenti: il picco petrolifero, l'estinzione di varie specie, i cambiamenti climatici, la crisi finanziaria. Quello che Daniel ci descrive non è misticismo, sono fatti. Guardatevi attorno. Il mondo è scosso da tumulti politici, catastrofi naturali di violenza inaudita e da un'instabilità economica che sta sconvolgendo i mercati finanziari. E indovinate, il culmine è previsto per il 2012, quindi siamo in perfetto orario. Ancora lo scrittore Daniel Pinchbeck. È da un po' che influenziamo i sistemi climatici e non sappiamo fino a che punto l'uomo sta sconvolgendo equilibri che sono molto delicati. C'è stato un terremoto, uragani, gravi siccità e inondazioni che hanno distrutto milioni di ettari di terre coltivate. Questa nostra civiltà è come un bozzolo da cui dobbiamo liberarci. Lo sviluppo dei Maya è così rapido che finisce per devastare l'ecosistema di cui fanno parte e se ne rendono conto troppo tardi. Chi vi ricordano? Il parallelo delineato da Daniel è fin troppo ovvio, ma sentiamo l'opinione di un'esperta. Shuni è una calendarista Maya. Si rifà a un'antica tradizione che combina le discipline della matematica, dell'astronomia e del computo dei calendari e che serviva anche a predire il futuro. Inoltre i calendaristi interpretano la simbologia Maya. Uno dei simboli più diffusi descrive un serpente che ingoia la sua stessa coda. Rappresenta il concetto di qualcosa che si distrugge e si rinnova allo stesso tempo. È a questo concetto che Shuni fa riferimento. Secondo me l'intero pianeta è in difficoltà. Nessuno sa con certezza cosa potrà accadere. Tra i Maya, il ruolo del calendarista è considerato sacro. Sono loro a eseguire rituali in particolari date. E l'ultima data, quella più importante, è ormai imminente. Ancora Shuni Giron. Ci sono molte teorie su quello che potrebbe accadere in occasione del 21 dicembre 2012. Secondo alcuni, in quella data potrebbero esserci dei brillamenti solari. I brillamenti solari rappresentano una gravissima minaccia per gli effetti che potrebbero avere sul nostro pianeta nel 2012. E sapete chi lo sostiene? La NASA. Di solito i brillamenti e le tempeste solari seguono determinati cicli. L'Agenzia Spaziale ha dimostrato che i brillamenti di massima intensità si verificano a intervalli di circa 11 anni. E quando è previsto il prossimo? Esatto, nel 2012. Ancora Shuni Giron. Abbiamo avuto uragani, inondazioni, abbiamo registrato cambiamenti climatici repentini. Come mai prima d'ora? Sono tutti elementi degni di nota. I Maya leggevano il futuro, erano dei grandi astronomi. E devono aver visto qualcosa che ha innescato tutto questo. Erano adoratori del sole, quindi sono convinta che potessero prevedere le tempeste solari. Nel 1989 la NASA registra un brillamento solare così potente che i lampi sul Canada sono visibili fino in Texas. Qualcuno li scambia per attacchi nucleari e 6 milioni di canadesi rimangono senza corrente. L'ultimo picco del ciclo nel 2001 passa quasi inosservato, ma secondo molti questa è solo la quiete prima della tempesta. Steven Schoeffler, programmatore e ambientalista. In pratica i brillamenti sono eruzioni di gas dalla superficie del Sole. Il Sole è come una bomba termonucleare ribollente. Non è stabile per niente. I brillamenti interrompono di continuo le comunicazioni. Nello spazio certi eventi disturbano le comunicazioni satellitari e succede spessissimo. Il mondo moderno, la nostra società, è sempre più dipendente dalla tecnologia. E un potentissimo brillamento solare, di quelli che capitano una volta ogni 10-100.000 anni, possono distruggere tutti i nostri apparati elettronici, mettere fuori uso i nostri computer e quindi anche le nostre auto, che hanno migliaia di chip tra i loro componenti. Se il sistema dei trasporti andasse in tilt a causa di un disastro naturale, in breve tempo la gente soffrirebbe la fame. Rifletteteci, cosa avete nel frigo in questo momento? Vi basterebbe una settimana, magari 10 giorni? Mettiamola così, 72 ore dopo un brillamento di grande potenza, i negozi esaurirebbero le scorte. Non sto parlando di cracker e merendine, gli scaffali si svuoterebbero. E sapete che succede quando la gente ha fame? Perde il controllo. Prevarrebbero inciviltà ed egoismo. Non è una bella prospettiva. Secoli fa i Maya hanno predetto anche le tempeste solari. Non vi ricordano i brillamenti? Ma quello che più mi terrorizza è che un simile evento ci coglierebbe del tutto impreparati. Molte antiche profezie annunciano la fine del mondo entro il 2012. In molte culture ci sono testi che parlano di incendi, carestie e inondazioni. L'intensificarsi di queste catastrofi è considerato un sintomo della fine imminente. Le inondazioni che seguirebbero allo scioglimento dei ghiacciai sarebbero il segno della futura apocalisse. Charles Wolfort, ecologista. Quello che sconcerta molti in realtà è il fatto che le conseguenze sono assolutamente imprevedibili. Non possiamo sapere che cosa accadrà, se ci saranno violenti tornado, oppure uragani estremi, gravi siccità o profonde crisi sociali. È un problema di tempi, perché le conseguenze arriveranno senza preavviso, mentre intervenire richiederà decenni. Siamo già a un punto critico. Guardi i ghiacci dell'Artico. Qualcuno penserà, e allora? E invece il livello di ghiacci regola il clima dell'intero globo. E lo scioglimento delle calotte è così rapido da aver raggiunto un punto di non ritorno. E interessa l'intero ecosistema. Nei laghi e negli stagni cambiano le correnti. In alcuni punti si prosciugano, in altri cambiano forma. E sapete dove possiamo trovare profezie su grandi cambiamenti planetari? Nella Bibbia. Secondo l'Apocalisse di Giovanni, la fine dei giorni sarà preceduta da 7 segni. E il sesto di questi segni è costituito da una serie di terribili stravolgimenti naturali, tra i quali alcuni terremoti e un oscuramento dei mari. Ancora Charles Wolfort, ecologista. Alcune specie migrano a nord. Nell'Artico si incontrano pesci che vivevano nel Pacifico, mentre le specie polari, orsi bianchi, foche e trichechi, non hanno più un ambiente adatto a loro. Siamo all'inizio di un processo di estinzione, perché quell'ecosistema non regge più la fauna. Non c'è spazio sufficiente per tutti. Le persone reagiscono in maniera diversa. Siamo capaci di collaborare per trovare una soluzione, ma anche di farci a pezzi reciprocamente. Il modo in cui influenziamo il clima è un po' come lanciare dei dadi. Siamo troppo dipendenti da tecnologie che sono molto fragili. Stiamo sconvolgendo il clima, l'equilibrio ambientale da cui dipende anche la tecnologia, e gli esiti sono del tutto imprevedibili. La fine del mondo nel 2012 è stata profetizzata dai Maya, dagli indiani Hopi e persino da Nostradamus. E a quanto pare in tutto il globo sono parecchi quelli che tremano all'idea che il mondo possa davvero finire entro quest'anno. Quello che è ancora più inquietante è il fatto che la catena di eventi che dovrebbe portare a questo drammatico epilogo sembra essere già cominciata. Se osserviamo il mondo attuale, è facile abbandonarsi al pessimismo. Quando pensiamo alle profezie dei Maya, è difficile capire se dovremmo temere di più una catastrofe naturale o piuttosto i nostri peggiori istinti. Per quanto riguarda il futuro, ho un'unica assoluta certezza. È imprevedibile. I disastri sono e saranno inevitabili. Non sappiamo quando colpiranno, ma quel che conta è affrontarli preparati. Le profezie di cui abbiamo parlato sono terribili e magari per un po' non vi faranno chiudere occhio, ma vi tornerà l'ottimismo, perché la migliore qualità dello spirito umano è la sua capacità di non darsi mai per vinto. Avete appena ascoltato il documentario narrato dallo scrittore americano Brad Meltzer, realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Segreti svelati 2012, la profezia Maya, regia di Bill Langworthy, titolare dei diritti AETN, casa di produzione GoGo Lucky Entertainment e Berman Brown. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda mercoledì 14 novembre alle 17 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.